Buonasera, buonasera. Ben Ciao a tutti. ritrovati, ben ritrovate. Siamo alla quinta puntata Prog 17, vero? Siamo alla quinta puntata del rovescio della medaglia qui su Radio Wombat. Diamo giusto l'ultima occhiata finale di conferma ai volumi, perché a quanto pare lo sciopero continua di tutti i tecnici del I suono. nostri tecnici, sì, ancora In sono in sciopero, sciopero. sono ancora in sciopero, via. E Sciopero, noi va ci bene. arrangiamo da soli. Facciamo l'asse. Allora, oggi è una puntata speciale in qualche modo, vero? È un giorno speciale, ospiti speciali, freddo speciale, quindi moccoli speciali Sì, anche, tutto una speciale puntata oggi. speciale in tutti i sensi. Vogliamo anche dire Prog 17 che oggi ci sarà un approfondimento del gruppo che abbiamo scelto, cioè del gruppo che ha dato il nome Che ha a dato il questa nome nostra trasmissione, al nostro programma e vero? sono appunto il Che rovescio della non medaglia. era Domenica In, no, quello No, domenica in di domenica, di martedì di facciamo il rovescio della ah, beh, medaglia. ok, no, ci siamo perché ci siamo un po', siamo un po', noi siamo degli artisti poliedrici, si fa un po' di tutto oggi, anche se Prog 17 ti voglio più carico, Più attivo, sì, questa è una puntata, forza, ci ci vuole carica vuole carica, e via. verve. Allora, dicevamo, da chi cominciamo oggi? Cosa proponiamo ai nostri 6, 7.000, 8.000 ascoltatori? Cosa proponiamo? Allora, io, dato che comunque continuiamo il nostro ordine alfabetico dei gruppi, partirei con gli Unka Munka. Un camunca, Unka che Munka. sembra molto tipo il patois giamaicano, no? Dici, un camunca, yaman, Sì, però non è reggae, non no, è. no, no, rimaniamo sempre sul prog. E questo è un gruppo che ha. Nonostante l'unico album, come tanti gruppi, ha avuto un discreto successo e ha suonato in Inghilterra, in Germania, in Svizzera, anche aprendo concerti di Rod Stewart e dei Colosseum. Rod Stewart, Prog 17. Gli Stewart sono quelli sull'aereo. Ah sì, no, pensavo fosse Correggiti. la stessa Prog persona. 17, cerchiamo di dare un certo livello di credibilità Comunque, una particolarità di questo gruppo che ha avuto come chitarrista Ivan Graziani e poi che ha continuato con una carriera da solista. Appunto, l'unico album che si chiama Dedicato a Giovanna G viene ricordato per una copertina particolare. Praticamente c'è una tavoletta di un water vista Ma dall'alto, dai. sì, che si apre con Cioè la te. copertina e dentro c'è un'altra foto di un palazzo, un paesaggio urbano con un po' di ombre, di figure La strane. facciamo vedere a tutti i nostri ascoltatori? Facciamola Eccola, vedere, eccola. eccola Vede, la qua, potete vedere, eccola qua. almeno sapete che non spariamo. Pip! Mi No, autocensuro, no, capito? infatti. Guardiamo, ce l'abbiamo qui, l'LP originale. Comunque, da questo album vi faremo sentire un unico brano, che si chiama Ruote e Sogni. No, Ruote e sogni o ruote? no, Ruote e Sogni. Ah, ok, allora è stato. Sì. Il cantante, la voce, il tastierista di questo gruppo, che è anche il fondatore, che è questo Carlotto, soprannominato Unka Munka, è ricordato anche per essere un virtuoso, sì, dell'organo e del piano, però è ricordato anche per aver modificato i suoi strumenti. Quindi modificava l'Hammond, modificava il Moog e aveva comunque dava un tocco di personalità ai propri strumenti elettrici. Accidenti. Ora, Prog 17, perdona l'indiscrezione. Quanto hai pagato queste informazioni? Questo ho dovuto Mi sa pagare che ti è costata proprio parecchio questa. direttamente un camunca. Mi sa che qualche rene ti è partito Eh via sì, per queste uno, dai, informazioni. ora qualche, ce n'ho solo due. ma no, noi Prog siamo esseri speciali. Va Va bene, bene, dai, mandiamo la puntata Ruth. sarà lunga, dedicata appunto al rovescio della medaglia e anche un ampio spazio al balletto di bronzo, visto che comunque è la lettera I di È vero. questa sera. E mandiamo ora gli Unca Munca con Ruote e Sogni, vero? Preciso. andiamo sfumando sulle note di ruote e sogno, rute e sogni, che non si è capito, proprio 17, però... Ruote e sogni. Ruote e sogni. Sei sicuro? Sì, sono sicurissimo. Va bene, questi erano gli Unca Munca, giusto? Preciso, gli Unca Munca. Allora, prog 16 e tre quarti, l'altro giorno camminavo per Firenze e ho visto, sai, prog addict, sono sempre alla ricerca di se stessi, in qualsiasi momento della giornata, e così camminavo alla ricerca di me stesso e ho visto un manifesto che diceva che il 7 dicembre al Teatro Puccini ci sono gli NCCP e gli Osanna, i grandi Osanna, che approfondiremo anche quando arriverà la lettera alla sua. Alla lettera O. E praticamente egli con gli NCCP, che non è... La nuova compagnia di canto popolare. Scusa se ti anticipo così, che dentro... Entri proprio a gamba tesa, sì, perché io pensavo fosse l'acronimo di noleggio con conducente per proletari. Quindi te, ne so, una sera te non ce la fai proprio a guidare, quindi... E quindi... compagni... E nulla, quindi per ora, quindi 7 dicembre, chissà se si truccheranno ancora come ai tempi che gli Osanna erano famosi, come ben sai, per truccarsi in volto e fare i loro live... con questi trucchi molto appariscenti, chi lo sa, vedremo. Possiamo andare a vedere. Andremo, vedremo. Te non hai visto nessun live nel frattempo in questa settimana? No, non ti è capitato nulla non hai ricercato te stesso, via. No, ho ricercato me stesso, ma... Non l'ho trovato. No, non l'ho trovato. Non mi sono trovato. Ok, allora il prossimo gruppo che presentiamo sono i Califfi, vero? I Califfi, chi li presenta? Gruppo, facciamo testo croce, li presento io. Maledetto, va bene. E vabbè, i Califfi è un altro gruppo fiorentino che hanno nella prima formazione c'è anche il futuro chitarrista degli Area, quindi voglio dire, insomma, anche di un certo livello. E anche il batterista di quelli, il batterista dei Campo di Marte, che per gli ascoltatori più attenti, quelli più hardcore, diranno: è vero, infatti noi, Campo di Marte, con la lettera C noi si passò anche Campo di Marte. E nulla, praticamente il gruppo si riformò nel 72, perché all'inizio erano un po' così... vagavano nelle varie formazioni, erano un po' oggi suono con te, domani con lui, capito? Nel 72 si va a creare la formazione che danno origine, anche questo, ad un solo album, un solo LP che si chiama Fiore di Metallo, che è uscito nel 1973, è un buon album prog, e noi di questo album andiamo a presentare due pezzi, cominciamo Nel mio passato e A piedi scalzi, no, addirittura forse pure tre, se ci scrivete in tempo reale e ci chiedete il terzo pezzo, vi si mette pure il terzo pezzo. Ricordiamo, potete scriverci a postawombat@insiberia.net. Oppure andare al nostro sito. Oppure il nostro sito wombat.noblogs.org o su Twitter con twitter.com/radiowombat. Radio Wombat di Firenze. Oppure su facebook.com/radio-wombat-firenze. Sì, la chiocciola non c'è, però vabbè. Ah, no, lo slash. Abbiamo fatto un mash. Sì, si è fatto un po' un mix della mix scrittura di HTML. Comunque, sono sempre i soliti. Va bene, via. Allora, cominciamo questa full immersion nei Califfi con due pezzi, e se ci scrivete in tempo reale vi si mette anche il terzo. E loro sono i Califfi da Firenze e cominciamo con Nel mio passato. felici, correvo sempre, ero più buono, non conoscevo niente del mondo. State ascoltando i Maliffi su Radio Wombat. Tutti noi belli e brutti sempre troveremo chi ci grida. le ultime note dei Califfi, cominciamo a presentarvi il prossimo gruppo, che si chiamano I Teoremi, e hanno avuto il debutto discografico nel 1971 con un singolo, Sognare, il cui titolo era Sognare, che aveva sul retro, pensate un po', una versione italiana del brano di Jethro Tull, Would You Dare to Help Me, intitolata in italiano Tutte le cose. Ora vi facciamo ascoltare un estratto del pezzo originale di Jethro Tull mixato con la versione italiana dei Teoremi che si chiama Tutte le cose. Thank you. durante questo fantastico mix, Proguno ha mangiato tre panini con pane e salame, formaggio e, non lo so, Nutella, c'era tutto dentro. ma no, sapete tutti che sono vegano. No, vabbè. Va bene, Allora, comunque, andiamo avanti. Prog 17, perdonami un piccolo. È Prego, il momento prego. degli annunci. Il momento degli annunci perché? Perché prima con i califfi, se vi siete resi conto, abbiamo fatto un po' abbiamo fatto una suite personalizzata, autoprodotta da noi. Sicché noi da oggi, visto che ci vengono pure discrete, da oggi noi vendiamo suite, ossia. Visto nel reggae, nel mondo del reggae c'è il dubplate. Se chi non lo sapesse, il dubplate è il cantante che dice, che ne so, te ti chiami Mario Rossi, allora dice, Mario Rossi, dice una serie di più o meno cazzate e tu lo paghi e ti fai il dubplate. Prima il dubplate non era così originariamente, e noi si fa invece le suite autoprodotte, quindi voi mandateci la lista dei pezzi che volete, le mixiamo E noi e ve li mixiamo e ve li rispediamo. poi i prezzi per questioni di privacy non possiamo dirli, ci scrivete, noi vi si in No, privato. ci mettiamo d'accordo in privato. In privato. Andiamo avanti. Bene, quindi passiamo dopo il 45 giri dei teoremi, passiamo all'unico album dei teoremi chiamato per l'appunto, indovinate un po'? I I teoremi, teoremi. grande, grande Proguno, le sa tutte. E un disco non proprio con sonorità progressive, più, diciamo, più sonorità hard rock, però abbiamo scelto questo lungo brano che si chiama Il mare della tranquillità, che è l'unico brano ad avere delle tastiere e è ispirato un po' più al mondo del prog. La particolarità di questo LP, chiamato I Teoremi, è che è introvabile e le uniche copie che ancora sono in circolazione valgono una fortuna. Sappiatelo quindi che magari, che ne so, fate le pulizie in casa, sistemate Certo. i libri, cioè Vostra nonna trovate vi ha lasciato in eredità un un disco dei vostro Teoremi. zio, un vecchio, oppure lo zio rimastone, sai, che seguiva la prog all'epoca e magari sappiate che se avete un disco dei Teoremi siete ricchi, potete lasciare tutto, lavoro, moglie, marito, figli. E vendere questo disco e scappare, non lo so, andare a giro per il mondo a consumare i soldi di questo disco. No? Insieme alla Poelcan, magari. Che mandiamo? I teoremi, mare della Mandiamo I tranquillità. Teoremi, il mare della tranquillità, tratto dall'LP I Teoremi, su Wombat Radio. Thank you. Su questo mega solo dei teoremi con Mare della Tranquillità, anche vedi anche come l'ho pronunciato, Mare della Tranquillità, tira proprio sì, proprio ti mette a tuo agio, è proprio con la stessa tranquillità. Prog 16, vogliamo anche raccogliere l'appello di Richard. Ah, non so se avete letto o sentito qualcosa riguardo a Richard. Ho incontrato di persona Richard Benson, che avevamo già speso qualche parola su di lui in qualche puntata fa, dicendo che era il fondatore del gruppo Buon Vecchio Charlie. Noto soprattutto a Roma, nelle televisioni locali o nei concerti, per praticamente non suonare, o comunque suonare poco, ma il concerto viene completamente disturbato dal lancio di oggetti e da insulti, fischi da parte del pubblico. E praticamente lui sostiene, hanno fatto questa piccola intervista, sostiene che ha un malato, qualcosa al cuore, credo, che ha bisogno di soldi, e gli hanno chiesto, giustamente il giornalista gli ha chiesto, dice, ma scusa, tutti i concerti, i soldi che hai fatto, cioè, i soldi vanno e vengono, si consumano e quindi... Ed è rimasto senza denti. È già giusto... Anche se forse li ha venduti i denti. E poi cioè lui, cioè la versione ufficiale, ossia la sua, è che tipo ha proprio un concerto, come te giustamente prima spiegavi, che gli ultimi concerti suoi erano un po' una sorta di spettacolo da circo, anche di pessimo gusto, che gli tirano oggetti addosso, insulti, e è proprio uno spettatore, gli ha tirato una lattina, una bottiglia di birra, non ho capito, gli ha fatto, cioè, tipo effetto bullying strike, cioè una bottigliata gli ha fatto cascare tutti i denti. Tutti. ma chi se la beve? Vabbè, però la versione ufficiale, la versione sua è quella. Va bene. Allora, vogliamo andare avanti con la trasmissione, eh? Andiamo avanti e vi presentiamo il nostro DJ Pane e Salame. Vi presenterà un altro gruppo storico del prog italiano che si chiamano i Balletto di Bronzo. Allora, del Balletto di Bronzo, che mi dai, Prog 17? No, io non ti firmo nessun contratto, Prog 17, non ti lascio nulla della mia eredità musicale. Cioè, tutta la sera mi perseguiti con questi fogli, non ti firmo una beata cippa, non ti firmo. No, ma non era niente da firmare, era il borderò da compilare, però va bene, lo facciamo. Lo compiliamo dopo, comunque non ti firmo nulla. Il prossimo gruppo che andiamo a presentare è il Balletto di Bronzo, che è un balletto formatosi un balletto. La rifamo questa. Chuck si gira. Allora, è un gruppo che si è formato a Napoli, quindi che poi Napoli ha dato anche i natali a, che poi più avanti, quando arriverà la loro lettera, il loro turno, dato anche natali agli Osanna, che li abbiamo pronunciati prima, che li abbiamo ricordati e nonché presentato il loro tour, che fanno una data a Firenze. E poi sto morendo. Sei emozionato. Mi sono emozionato. Sono le briciole del panino, in realtà. Sono andato di traverso. Vabbè. E mentre dicevamo, è anche Napoli Centrale, che poi più avanti, quando arriverà la loro lettera, il loro turno, ve li presenteremo. E, praticamente questo gruppo esce con due album, di cui il primo si chiama Sirio. E come si leggerà? 2222 o 2222? No, credo suoni meglio 2222. Oppure tipo in inglese 2222? Come si dicono le date in inglese? Boh. No, 2222 penso va bene. Ci piace, vero? Sì. Oppure lo vuol dire in latino? Madonna. No, meglio di no. Latino. No, il latino mi facevo sempre creativo, cioè non facevo né religione né latino. Ah, cioè, obiezione di coscienza. Obiezione di coscienza, infatti lì imparai a suonare tutte le conche. Giustamente. Che il creativo era in sostituzione del latino e di religione, erano imparare a suonare le conche. Con che gruppo? Prog 16, ricordiamolo. Con i Goblin. Ok, allora andiamo a presentare dall'album Sirio 2222 o 2222 o non lo so, sto impazzendo, e andiamo a presentare il pezzo che si chiama Neve Calda, che io ci ho scritto sul mio fantastico iPad, però non si fa pubblicità, che è un pezzo pancheggiante, e l'ho scelto proprio per quello, perché è un pezzo un po' di un genere un po' pancheggiante come pezzo, e quindi siamo un po', diciamo, un po' fuori dalle linee, fuori da quello che è la nostra scaletta tipica del programma, e vi mandiamo Neve Calda. Non eri qui. Ok, e dopo questo pezzo pancheggiante con un po' un ritornello alla Sex Pistols quasi, no? Tira Sì, fuori un po', il tuo lato punk proprio diciamo, 17. va contestualizzato in quegli anni, diciamo, Un mix tra punk con questi ritornelli un po' beat, punk beat. un punk beat. Potremmo Sì, creare un va. nuovo genere, ma sappiatelo che vogliamo i diritti d'autore, cioè nel senso che c'è la il cerchietto con la R, o con la, no, con la C o con la R, che lettera? I marchi Con registrati, con la copyright, R. con la C, con la R è il marchio registrato. Quante ne sa? Ma un Sempre detto a dei. caso. Ah, è sparato a caso. Sì, una cazzata proprio. Senti, Prog 17, ascolta, nel secondo album che andiamo a presentare, è sempre dei Balletto di Bronzo, è del 72, e aiuto, Is, Is. che cioè, la versione ufficiale dice che è un'importante città della Bretagna, una leggendaria addirittura Non, città in Bretagna, però. ma leggendaria nel senso che esiste e c'ha Nei tante loro cose, sogni, cioè, era è forse leggendaria per questo, oppure leggendaria che proprio fa parte della leggenda, quindi non esiste. forse era qualche hanno bevuto qualche tisana di troppo, forse, perché Is, in effetti, pensando al dialetto, visto che erano napoletani, Is è lui, quindi, però, non lo so, Però bisogna vedere in bretone che cosa significa is. scopriremo, vi diremo anche questo. E di questo album, che io credo sia un concept album, anche perché c'ho il vinile qui davanti e c'è praticamente composto da 5 tracce, che introduzione, primo, secondo, terzo incontro ed epilogo. Quindi io credo proprio che sia un concept album a tutti gli effetti, Sì, proprio è. 17. E se non lo è, lo decidiamo Lo noi decidiamo che noi, è un concept è. album. Punto e basta. E noi vi mandiamo. Da questo concept album auto, è vero, non devo dare cazzotti sul tavolo, Ma è è la l'enfasi, vega, è capito? l'enfasi, proprio È quella l'emozione di voglia presentare. è quella radio live fatta dal vivo, l'emozione Que come vera, dire, quella capito? radio vera, verace, quella radio un po' pane e salame, ecco. Capito? Basta questo genere. Prog 17, anche te stai mangiando, cioè no. No, io non Partiamo mangio. con le infamate e qua la musica non si mette più, io te lo dico. Mandiamo dei balletto di bronzo, madonnare, dei balletti di bronzo, andiamo, primo incontro e secondo incontro, mixiamo anche questo, Sì, mixato mixiamo alla anche questo, perfezione è una da. mini suite già in vendita prima di mixarla, quindi se volete comprarla, tanto noi vi si manda. Moriva in sé quel che gridò. cielo chiaro, cosa gli può dire? Ok, benissimo, e avete ascoltato, abbiamo anche noi, perché con le cuffie anche noi l'abbiamo ascoltati, e il balletto di bronzo, e ora il prossimo gruppo che andiamo a presentare, so che è uno dei gruppi preferiti da sempre di Prog 15 e 3 quarti. Il prossimo gruppo si chiama Il Paese dei Balocchi. È un gruppo di Roma che si è formato nel 1971 e anche loro hanno realizzato un unico album che è uscito nel 1972 e è un classico album di rock prog sinfonico. Diciamo anche i titoli degli album, Prog 17. Il titolo dell'album, appunto del loro unico album, è anche questo un album omonimo che si chiama Il Paese dei Balocchi. Per chi non avesse capito ancora che cosa significa omonimo. E dicevo, un classico prog sinfonico con delle grandi influenze della musica classica, con un grande utilizzo delle tastiere, dei vari tipi di tastiere che si usavano in quel periodo. E appunto questo LP è formato da due lunghe suite divise in piccoli movimenti, come spesso succede nella musica sinfonica classica. In questo gruppo per un breve periodo ha militato anche Franco Di Sabatino, che poi è passato al rovescio della medaglia come secondo tastierista, che poi dopo andremo a illustrarvi meglio. E che ha, non confondere, Prog 1, sì, scusa, con un altro, ti ho visto un po' assorto, con un altro gruppo chiamato Il Paese dei Balocchi, che negli anni successivi ha realizzato alcuni singoli, ma con musica più commerciale, quindi che non hanno alcun legame tra di loro. Questo era per chiarire. Ah, quindi gli hanno rubato il nome e basta. Vedi? Sì, sì, o forse non li avevano nemmeno mai sentiti e hanno detto chiamiamoci così. Poi non è un nome così originale, insomma. Paese dei Balocchi ci siamo passati tutti. In effetti c'è anche chi c'è rimasto. Infatti. Questo brano si chiama Vanità dell'intuizione fantastica. E questi sono Il Paese dei Balocchi. Thank you. stiamo sfumando con il paese dei balocchi, vanità dell'intuizione fantastica. Vi ricordo che state ascoltando Il rovescio della medaglia su Radio Wombat. Ok, allora andiamo avanti con la nostra playlist e siamo arrivati proprio al gruppo che dà il nome all'album, vero? All'album. State appunto ascoltando Il rovescio della medaglia e Il rovescio della medaglia non a caso ha dato il nome all'album. Alla trasmissione. Nella oppure trasmissione. Sono loro che sono ispirati a noi per il titolo dell'album, alla fine andrà così. Infatti non sapevano come chiamarsi, ormai erano già abbastanza conosciuti a livello nazionale. Accidenti, la trasmissione mi piace. Interessante, chiamiamoci va, così. Ci ascoltavano sui Commodore 16 grossi come una stanza. Mi piace, sto nome di questa trasmissione, mi piace, ci do anche il nome all'album. Nonché al gruppo. Benissimo, bene, bando alle ciance, vedi, no? Quasi parte... A differenza degli altri, Il rovescio della medaglia non ha fatto un album dal titolo omonimo. No, sbaglio. No, ecco, non quindi l'ha fatto, proprio... quindi si è proprio sgarrato alla gara. Diciamo che l'ho sparata proprio, via. Eravamo proprio su altri altri pianeti. È vero, è vero. Però, scusate, è l'emozione perché presentiamo proprio il gruppo clou di questa, dell'intero programma, dell'intera trasmissione. Quindi lascio diciamo gli oneri e gli onori di questa presentazione a DJ Prog One. Sì, ti sei lavato le mani praticamente. Va bene, ok. Va bene, dai, via. Il rovescio della medaglia. Yes. Che si è un gruppo praticamente sempre di Roma, della scena romana dell'epoca. E il loro primo album. Il loro primo album si chiama La Bibbia, che uscì nel 71, è un album hard rock con delle però leggere influenze progressive, e questo è solo a livello informativo, perché il primo pezzo che abbiamo scelto noi, che sarebbe Io come io, che dà anche il nome al secondo album, che uscì un anno più tardi, quindi nel 1972, rimane sempre sullo stesso stile hard rock con influenze progressive, però diciamo ha la particolarità di contenere testi ambiziosi sui lavori di Hegel. Te conosci qualche lavoro di Hegel, Prog 16 e mezzo? Ma no. Che lavori ha fatto? Non lo so, Era impiegato. No, che lavoro? Lavorava in banca. No, solo quello conoscevo. Infatti. Cioè, di tutti i lavori che ha fatto conoscevo solo quello della banca. Sì, poi... per un breve periodo ha fatto anche il vigilantes. Ma privato? Privato. Però siccome si rifiutava di usare le armi e quindi voleva difendere con le frecce, tipo gli indiani, ha detto, vai in banca. Va bene, via, questi sono piccoli, sempre informazioni, chissà, io vorrei sapere quanto le pagate queste informazioni, Prog 17. No, non si dice. Cioè, tutto il fondo cassa che avevamo creato per comprare i dischi originali dei gruppi, cioè, te lo sei sputtanato tutto. Ho rivenduto l'LP di Teoremi, però. Quindi eri te uno dei pochi che ce l'aveva. Sì. Benissimo, allora... presentiamo da Io come io, che è il secondo album, presentiamo proprio il pezzo Io come io. Loro sono Il rovescio della medaglia. Thank you. Benissimo, erano. Allora, abbiamo ascoltato dal secondo album Io come io, poi Mea Culpa giustamente, Prog 17 e mezzo, mi ha ripreso e mi ha corretto, mi ha fatto notare che il primo album, che prima nella piccola biografia che abbiamo presentato del gruppo, La Bibbia, in effetti c'erano anche ben due pezzi del primo album. Giustamente Prog 17 mi ha ripreso e dice: oh, ascolta, non è solo a titolo informativo, del primo album ci sono da mandare due pezzi. E che in effetti, allora mea culpa, è che alla fine Prog 17 era partito mezzo addormentato, poi dopo un po' non si era accorto che come microfono usava la sua pagnotta da un chilo che si è portato con il prosciutto crudo e non so che, invece del microfono, e gli ho detto: oh, guarda, stai parlando con la pagnotta. Quindi, e invece ora è al boom delle sue energie, nota tutto, qualsiasi cosa nota. Comunque, allora, per ricapitolando, questo pezzo che avete appena ascoltato era Io come io, dal secondo gruppo, dal secondo album del Rovescio della Medaglia, dal titolo omonimo. Mentre il primo album del 1971 del Rovescio della Medaglia si intitola La Bibbia. E mandiamo La creazione e Sodoma e Gomorra. Da Radio Wombat. We'll be right back. Sodoma e Gomorra, il rovescio della medaglia. Abbiamo fatto anche una piccola presentazione di quello che è stato il primo album del rovescio della medaglia, che era La Bibbia, e abbiamo mandato in successione La Creazione e Sodoma e Gomorra. Prog 17, viene da pigliare un perdone. Eccoci qua. Gomorra. Gli effetti di Gomorra, ho letto Gomorra, sono degli effetti de Fritture. Ok, allora, vogliamo andare avanti? Andiamo avanti, siamo ormai al terzo album del rovescio della medaglia, che si chiama Contaminazione. Tutto a po'! Composto tutto questo con l'aiuto del compositore argentino Luis Enriquez Bacalov, che è anche noto per aver composto diverse colonne sonore di film in quegli anni, che aveva già lavorato con i New Trolls per il disco Concerto Grosso e anche con gli Osanna. E questo album è quello che si avvicina più al rock progressive classico, definito anche un prog sinfonico. Questo album è stato registrato anche in una versione in inglese, che però è stato pubblicato solo successivamente in Italia, mi sembra, no? Sì, Proguna, sì, dico bene. Sì, dici benissimo. Mi concedi anche una piccola noticina del terzo album? Ci dica. Che praticamente quest'album, come penso avrei detto, immagino e spero, e me lo auguro, che è del 73, che è proprio nel 73 entra a far parte del gruppo, della band, Franco Di Sabatino, che era il tastierista del gruppo che abbiamo presentato prima, ossia Il Paese dei Balocchi, quindi era giusto una piccola nota, perfetto, così, perfetto, giusto per dare anche, giusto per far capire che le nostre sono delle concept session, delle puntate, come si può tradurre? Session, come la traduciamo? Delle... sono concept puntate, delle, okay, sì, delle sono puntate delle nostre, sono delle concept concepite puntate. Come un macro testo, diciamo, del postmoderno, come un tutto un sì, perché voi vi lasciate ingannare dalle nostre risate, i nostri deliri, gli effetti di Gomorra, ma in fondo c'è comunque c'è una sottile linea rossa che lega tutta la puntata, tutti i gruppi che presentiamo, che scegliamo, in qualche modo sono tutti collegati tra loro, quindi è giusto che è di notevole importanza sottolinearlo, oserei dire, no? Perfetto, perfetto. Ho detto tutto. E ho detto tutto. Quindi dicevamo che questo album in inglese è pubblicato in Italia nel 1975, quando il gruppo si era ormai sciolto, nel 1974. Comunque, in questo periodo il rovescio della medaglia erano conosciuti soprattutto per le esibizioni dal vivo, e con diciamo, delle esibizioni molto, molto sceniche, molto potenti, sia dal punto di vista sonoro che dal punto di vista visivo. E vi leggo un estratto dalle note di copertina dell'LP Contamination, quello che è uscito poi in inglese. Ve lo leggo però in italiano. No, no, perché è stato scritto originariamente in inglese, proprio 17, ora tu lo leggi in inglese. No, io, allora, per i nostri ascoltatori che non parlano inglese, siccome l'ho tradotto, lo leggo in italiano. Allora, così... dice. Vuoi che ti metto una musica di sottofondo? Ma metti una musica di sottofondo, dai. Metti una musica di sottofondo. Che ti posso mettere? La grande fuga? Sì, metti la grande fuga. Io pensavo a qualche inno, tipo di qualche paese dell'ex blocco sovietico, no? Ma no, perché comunque era un album inglese. Quindi vabbè, magari... mettimi un sottofondo. Qualche canzoncina indiana per ricordare le colonie in inglese, no? Mandami un sottofondo, Bob. Ok, voglio farvi notare, voi non lo vedete, ma mi sta minacciando con la lama, che gli metto subito il pezzo. A comando rispondo. E ti facciamo questo è un esperimento, vediamo cosa viene fuori, via. Un reading live. Che scriveteci anche in diretta se non sentite una sega, se il volume è troppo alto del pezzo. E dove possono scrivere i nostri? Possono scrivere a posta wombat @ o @, come dicono gli amici latini, in siberia.net. Perfetto. Vai con la base, Bob. La loro strumentazione è tra le più interessanti in Europa. L'impianto voci Mac da 6.000 watt è quadrifonico ed equivale ad amplificatori a 36 tracce. La console è in realtà uno studio di registrazione portatile con filtri, compressori, eccetera. La chitarra, la batteria e le tastiere hanno amplificatori da 900 watt. Le tastiere consistono in un organo verticale Hammond B, un harmonium, un Eminent per riprodurre violini, due sintetizzatori VCS, un ARP 200 e due sintetizzatori Mini Moog. È anche importante l'impianto luci. Ci sono 50 lampade che riproducono colori ed effetti speciali. Su uno schermo speciale dietro il gruppo vengono proiettate diapositive e filmati per produrre effetti musicali astratti. Questo era ciò che si leggeva nelle note di copertina dell'album inglese Contamination. Che vi ricordiamo non è un appello, perché l'hanno fottuto nel 70. No, ricordiamo che diciamo, una delle cause principali per cui nel dicembre del 1973 un furto ha praticamente rubato tutto, cioè il furto che ha rubato, hanno subito... la centrale operativa di Carabinieri, a tutte le pattuglie in servizio, è stato... Proctue. La centrale operativa. signori, no? A scanso di ogni qualsivoglia, a scanso di equivoci, noi siamo prog 1 e prog 17. Non siamo volante 1 e volante 2. Siamo due DJ che ci piace suonare e riproporvi la scena prog italiana, sappiatelo. Comunque, subiscono questo furto di tutta la strumentazione. E il gruppo nell'anno dopo, nel 1974, si è sciolto. Quindi se qualcuno vede a giro, che ne so, un organo verticale Hammond B, ce lo porti subito in caserma. Io manderei il pezzo e andiamo sfumando con uno con un po' squarcio di vergogna. Di dignità proprio. Ascoltando il suono del silenzio, il rovescio della medaglia. Ok, benissimo. Allora, accidenti, aspetta, ci sono arrivate già le prime segnalazioni Prog 17. Ci ha scritto tale, il suo nickname è suonavo nei Pink Floyd ma non mi hanno mai notato, che dice che ha trovato alla campana del vetro, ha trovato un ARP 200. Pregato di... ce lo potete riportare nella centrale? Va bene, il finale di larità, proprio diamo. Finale scoppiettante. Come i fuochi d'artificio, sto sul finale, si dà il massimo del... Ok, allora, il prossimo pezzo che andiamo a presentare, sempre dallo stesso album, che è Contaminazione del 1973, è Lei sei tu, due punti, lei. Che direi che il titolo così infognato, come siamo infognati noi in questa puntata, e proprio ci diamo con la zappa sui piedi praticamente. Però il pezzo è Lei sei tu, due punti, lei. È libera interpretazione, no? Prog 17 è cascato nel mutismo più Vabbè. Lei sei tu, due punti, lei, il rovescio della medaglia. Benissimo, e sulle note degli ascoltatori più affezionati avrete sicuramente riconosciuto una delle due sigle, ben due sigle che noi abbiamo come apertura al programma. E questa era La Grande Fuga del Rovescio della Medaglia, che in quanto un pezzo abbastanza potente, quindi questo molto ci è piaciuto semplicemente. Con questo andiamo a chiudere quella che è stata la quinta puntata del Rovescio della Medaglia, e vi salutiamo a tutti e vi aspettiamo la prossima settimana, martedì prossimo, sempre alle 19, intorno alle 19, con un'altra puntata particolare dedicata in gran parte alle orme. Ok, sempre live, vi ricordiamo, sempre live. Sempre live su Radio Wombat.